Mille una maremma ci sono, immaginari e reali, aperti ai venti e ai forestieri. Ognuna ha ispirato poeti, pittori, fotografi, viaggiatori e oggi attrae turisti, ciclamatori, romantici, velisti, camminatori e gastronauti. La Maremma è una terra leggendaria dove allo stesso desco vi sono il mago Merlino, la maga Alcina, la fata Petorzola, dove si può brindare con il brigante Tiburzi, cavalcare con i butteri e le romandre, assistere ai tornei folcloristici all'alberese. Mangiando l'acqua cotta si può ricordare Garibaldi, che fece scalo a Talamone con i mille, e guardando verso la Miata evocare le gesta del santo Davide, che credeva in un mondo nuovo e più giusto. Maremma è la terra di mia mamma, di sua madre e di sua nonna, ed è pure la terra del mi babbo e del mi nonno. Qui si dice mangià, dormì, lavorà, camminà. Finalmente arrivai a Grosseto, dopo ore di panorama e sonno, scanditi dai nomi delle fermate, urlate al microfono dal capotreno con accento toscano. Noleggiai una bici per attraversare i miei luoghi della memoria. Rividi il parco naturale della Maremma, le mucche sacre, gli scoiattoli, i cavalli bravi. Ispirai l'odore di pino, di corbezzolo, di salvia, di fieno, di sale. Riabbracciai il mare di ottobre, calmo come l'olio. L'autunno in Maremma è seconda primavera, ogni foglia è nuovo fiore. Tra il ponte dell'Ombrone e il mare pedalavo nei quadri del Pascucci e del Fattori. Scrissi pensieri su una busta da lettere contenente la raccomandata che mi aveva portato a Grosseto per firmare l'atto di vendita di una terra che avevo ereditato, con quei soldi, utili e terreni, avrei potuto comprare un bilocale nella mia nuova città. Mi fermai per un boccone nel parco, lì sotto gli alberi, sul tavolo di legno, come quello dove la nonna preparava la colazione, latte con orzo zuccherato e pane bruscato con ricotta. E diceva a me la nonna che volevo il tè verde: «Oi, è arrivata l'inglesa, magna che ti riperisci e diventi magra come la sambuchina!» Masticavo il pane duro con la ricotta insieme al mio sonno non finito e poi andavo a scuola. Che Maremma si andotti, ognuno pensa per sé e Cristo per tutti, poetava la nonna raccogliendo le briciole dal tavolo per metterle in una cassettina di legno, dove aveva scritto col lapis «Pe le galline». Dopo un bagno di primavera autunnale, proseguì verso Talamone, dove si trova il bagno delle donne, un luogo in cui, nel passato, le donne cucivano guardando il mare, in attesa che i mariti tornassero dalla giornata di pesca. Al bar ordinai un tè e scrissi sullo scontrino il mio programma del fine settimana: visitare il giardino dei tarocchi a Capalbio, località Giardino, Orbetello, fotografare i fenicotteri rosa, andare all'argentario. Il profumo dell'alloro emanava dallo scontrino mischiandosi coi petali, le bacche di sambuco, gli aghi di pino, le foglie, le pietruzze e i tesori marini, odori che rievocavano pinete, cipressi, grano, girasoli, pianure coltivate, colline dolci. La prossima volta andrò pure all'isola del Giglio, al castello e alla spiaggia del Campese. Ah, meravigliosa Maremma, buona per i suoi borghi e la sua umanità. Da Albinia arrivai a Manciano, patria del Ciaffagnone. Il paese offre uno straordinario belvedere, colline, mare e tre isole. Qui, a 444 metri sul livello del mare, l'aria cominciava a essere buona, mi raccontava il nonno, mentre alla piana c'era la malaria con zanzare e gramigna. Maremma matrigna, laguna e sfortuna, collina e cucina, dicevano i taglialegna che tornavano dalla Maremma amara e si curavano con i minestroni. Di poco si vive, ma di niente si more, cantava la nonna riempiendoci i piatti. Pensai al morellino bono, ai tortelli con la ricotta e gli spinaci, o ai tortelli con la cannella e il sugo, ai fici e all'agliata che faceva la zia Anna, e pensai all'olio nuovo. Da bimba andavo al frantoio ad assaggiare la prima spremitura delle olive, fette di pane duro legate con filo, come ali tuffate negli ziri, e il frantoiano ce le porgeva, zuppe e gocciolanti d'oro verde. L'olio era piccante. Sono innamorata delle terre dove ho trascorso l'infanzia, Manciano, Pitigliano, Sorano e Sovana, con le strade nel tufo e le necropoli etrusche. Sono innamorata dei bagni nei fiumi Albegna e Fiora, lenti e correnti fino al mare. Mi fermai a Poderi di Montemerano, mangiai con i racconti dell'oste come contorno, per poi concedermi un buon sonno. Al mattino pedalai verso Saturnia, in discesa. «Che in giù ci vanno anche le patate», diceva il mio babbo. passai dal paese a forma di cuore, Montemerano. Infine, immersa tra il vapore e le acque a 37 gradi delle cascate del Molino, anche quella domenica terminò, tra spicchi di sole e di luna. Tornai a casa. L'odore sulfureo di Saturnia dai miei vestiti si era diffuso nel loft, così come in me la nostalgia di quei luoghi. Nel pomeriggio piovoso, tipico della mia città, misi a bollire dell'acqua e nell'attesa conclusi la lettura della Vitagra, romanzo del conterraneo Luciano Bianciardi. Non avevo firmato, non volevo vendere la mia terra in Maremma, che chi vende non è più suo, diceva il mio nonno. Tra quelle colline e quei fiumi costruirò una casa per tornare a vivere nel mio paese natio. Dopo qualche minuto il tè, verde come la mia Maremma, era pronto e aveva il sapore della meravigliosa terra madre.